Qui sotto, qui sotto. Dov'è? Dov'è? È qui sotto. È qui sotto. Arriva, arriva. Dov'è? Dov'è? È arrivato? Arriva, è qui sotto. È qui sotto? 15, 14, 13, 12, 12. Buon anno. 9, 8, 7, 6, 5. All time rock and roll. Siamo tornati in diretta anche questo mercoledì. E io mi sento un attimino solo perché, come solo? No, perché i miei compagni effettivamente voce, da solo. I miei compagni di voce stasera non ci sono. E quindi ho solo i tecnici alla console. E arrivano, arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva. È qui sotto. È qui sotto, è qui sotto. È qui sotto. Patru! Patru! Patru, dove sei, Patru? Aiuto! Vabbè, se vuoi andare avanti, sì, andiamo avanti. Devo fare un'introduzione, intanto. Anche oggi. Poi aspetta, oggi, tutto oggi. Il giorno, aspetta, ti metto una base, aspetta. Bravo, più bello, più bello. Mancava più bello. Qualcosa. Ragazzi, incredibilmente mercoledì all time rock and roll e c'è il sole fuori, avete notato? Beh, insomma. Meglio così, dai. Meglio di niente. Meglio di niente, dai. Dovrebbe andare peggio. Oggi andremo a parlare della prima parte della storia del 1971 e iniziamo subito la puntata perché oggi non ci sono compleanni. Non ci sono. Non ci sono i compleanni. Oh. È arrivato, sì. No, ancora non è arrivato. Eccolo. Appropinquati al microfono. Salve. Oh, calma. Salve. Hai ordinato una pizza? No. La volevi? No. Come sta? Diciamo, bene, ho fatto il riscaldamento per dopo. Ah, per il calcetto? Sì, esatto. Ok. Ho rischiato di morire. L'ha comprata questa automobile? Sì. Sì, l'ha acquistata. Sì, ho deciso anche il colore. Con la fattura o senza? Con. Con che colore l'hai fatta, Patru? Verde. Non lo so, è tipo giallino. No, io so che era indeciso tra due colori, nero e più nero. Poi... No. No, ho deciso nera. Oh, è nera. Lo so. Nera come? Ci avrei giurato, guarda. No, sì, nera, nera. Nera, nera. Nera, nera. Bella. Nera. Tutto nera. Bella, anche i fari sono neri. Sì, esatto, fanno luce nera. Quando non accende è più buio. Esatto. Hai capito? Bravo, così mi piace, Frasco. Vieni qui, dammi il cielo. Vieni qui, senti. Tipo la macchina di Batman. Ok. Comunque, stavo introducendo la puntata. Certo, no, scusate il ritardo. Prima di tutto, scusate il ritardo. Ho fatto sì un ritardo di 5 minuti. Scusate, causa forza. Ridillo una volta, un attimo, si è capito. Che ho fatto ritardo. Causa forza di scu. Scusate. Ah, ok. Scusate. Molto bene. Hai annunciato. Sì, stavo annunciato la programmazione. Allora, la notte ti interrogo. Allora, hai spiegato il programma? Sì. Bravo. Old Time Rock. Hai spiegato chi siamo noi? No, chi sera? Perché te un Cherry. Io sono il nanno. Poi console sempre il biondo, il mitico biondo. Biondo detto da parte, non ha cambiato le cuffie. Vabbè, sì. Comunque è l'ingegnere lui da ora. Sì. Aspetta, ma ora che trovo. Aspetta che trovo. Non era architetto. No, era ingegnere. Ingegnere. Aveva delle cuffie rosso fuoco. Ah, spettacolare. Allora, se le trovo. Allora, ingegnere, come va? Beh. Tutto bene? Tutto bene. Questa macchina? Sta macchina non si fa. No, come? Non si fa. Ma come? Non si fa. No. Ancora non si fa. Poi abbiamo il nostro secondo tecnico. Ah, ma il tecnico direttamente dalla Roma di Barcellona. Hola. Hola, Diego, come sta? Muy bien. Okay, la Roma di Barcellona, del Torero, del Madrid, del Colchoneros. È la prima puntata che fai da quando sei tornato da Barcellona. Oui. Oui, no. Oui, monsieur. Da. Ah no, mi scordavo la settimana prima ancora da Bruxelles. Che vita. Un attimo, perché io mi sono accorto che DJ Patrus si è sprovvisto di scaletta. Oppure ce l'ha? No, però direi, credo. Se l'ha imparata a memoria. Cioè, ragazzi, io sono dalle 8, okay. Non mi fermo, sto per impartare, credo. Va bene. Ok. Avevo iniziato d'accordo a dire che questa puntata iniziamo la storia del 71. Oh, rock and roll. Bene. E volevi iniziare? Molto bene. Vuoi iniziare? No, vabbè, diciamo che ne manca bene uno oggi. Sì, ma purtroppo manca Luke. Che è una capitale. Dato nella capitale. A vedere il Papa. No, a vedere se ridavano Fiorentina-Napoli. A vedere se ci davano la rivincita. Ma purtroppo Jenny ha detto di no. Dai, ancora. ancora è qui che insiste. È incredibile. E allora iniziamo. Vabbè, un'altra mesata più o meno con sto Jenny. Iniziamo la puntata di oggi con Riders on the Storm. Quindi Doors. Ovvio. L'ultimo brano registrato da Jim Morrison prima della sua morte. Piccola curiosità. Oh, è del 1971. I Doors sono in studio e stanno improvvisando sulle note di un brano country dal titolo lunghissimo proprio. Riser in the Sky and the Cowboy Legend. Beh, amatissimo. Amatissimo dai DJ che devono annunciare le classifiche pop. No, dai cowboy. Da cowboy. È scritto da Stan Jones nel 1948. Pensavo da Stan Lee. E no, qui si riapre la rubrica All Nerd Rock and Roll, ragazzi. Ah, l'abbiamo fatta settimana scorsa. Sì, sì, tu sì, non sì c'eri. Sì, me l'hanno detto. Sì. Mamma mia, l'abbiamo fatta proprio panico perché non ci c'eri. Ci ascoltava, non lo sai. Il panico. Ci ascoltava. Sì, no, ma infatti da lui l'abbiamo fatta in spagnolo. Esatto, esatto. Esattamente. Esattamente. Che settimana prima. Sì, che era a Bruxelles anch'io. Sì. A Bar Bruxelles. Posso Bruxellona continuare? Sì, direi di sì. A Bruxellona è il panico. A Bruxellona vieni qui, dammi un altro giro. Sembra un salume. Sembra un salume. No, Bruxellona. Non si sente tanto bene. Sembra un salume. Gli spaccherò la mano la prossima volta. Il 5 del Todd. Todd. Comunque questa canzone, il testo di questa canzone si fa riferimento a un killer on the road, doppio rimando a una sceneggiatura che Morrison aveva scritto intitolata The Ickner. Si pronuncia così, credo, Patro, no? Credo, sì. E al killer Billy Cook, un criminale del Missouri che appena uscito di prigione aveva comprato una pistola e rubato una macchina. Quando erano finiti i soldi della benzina, aveva fatto l'autostop e ucciso una famiglia dell'Illinois. Ma e un rappresentante di Seattle prima di essere catturato e condannato alla camera gas. Eric Reed, sceneggiatore di The Hitcher, il film del 1986, dichiarò di essersi ispirato a Riders on the Storm, di essere partito dalla canzone per sviluppare proprio la trama del film. No, io veramente non riesco a trovare il punto. Io vorrei ricordare che Hitcher è anche il nome di un videogioco. Ecco, giusto per rientrare. E qui mi trovi impreparato. Bravo. Il nostro tecnico la grazie può mandare finalmente Riser on the Storm The Doors. Doors.

Rider on the Storm, i mitici Doors. E siamo in chiusura. No, no, ancora no. Era la sigla della chiusura questa. Guarda la sigla, guarda la colonna di Star Wars. Star Wars. Sì. Perfetto. Quindi ci sei andato poi a quell'evento famoso di Star Wars? No, no, no, non ci sono andato. Okay. Non ci sono andato, sì, evito di spaccare il tavolo. Il tavolo. Sì. È meglio. E, no, non ci sono andato. No, era lo Star Wars Day, no, perché era a Roma il Colosseo. Insomma, ecco, non è che era proprio vicinissimo. Così potevi vedere anche il Colosseo. Vero, con le truppe imperiali all'interno. Ma che panico che sarebbe stato! Bello. Fantastico. Comunque andiamo avanti con la storia del rock del 1971. Con una canzone un po' particolare, diciamo. Degli Statesboro Blues, che sembra una super cazzola, ma sì, esatto. Prematurata, Antani. È una canzone blues in do scritta da Blind Willie McTell. Il titolo si riferisce alla città di Statesboro, che si trova in Georgia, USA. McTell incise questa canzone il 17 ottobre del 28 utilizzando parte del testo di una registrazione del 1923 del brano Up the Country Blues, fatta da C.P. Wallace, brano che in seguito fu reso popolare dai Kenneth Heath con i titoli Going Up to the Country. Che pronuncia Valerio che fa. Ma oggi veramente è una cosa, guarda, un prof okay. d'inglese. The Allman Brothers Band, Statesboro Blues. Oh! Woman I've ever seen. song. Ed erano gli Allman Brothers Band con Steve Board Blues. Ah, anche te comunque. Ho sbagliato. No? Perché? No, no, hai detto bene. Gli Allman Brothers. Anche te hai detto molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Ah, auguri Paolo. Auguri Paolo. Eravamo dimenticati anche oggi. Anche questa settimana, il nostro amico Paolo, come tutti i giorni, finisce gli anni. Sì, mercoledì e il sabato lui. Molti giorni. Ah, due a settimana. Non ti fa mancare niente. Quindi teoricamente sono due settimane, si dovrebbe avere all'incirca 93 anni, 94. E l'ha passato. E ne dimostra 23. Per gamba. Per come culla. Vogliamo fare il nostro angolino nerd, Patru? Ma non, non hai niente non da nerdare. Cioè, stasera. Avrei molto da nerdare, però fondamentalmente cioè devo parlare scusate, di argomenti nerd, chiaramente il nostro bindo certo. Mi assisterà. Sono adesso comunque sia argomenti, cioè non posso parlare magari, che ne so, dell'ultimo capitolo di One Piece uscito in Giappone sottotitolato coreano che abbiamo visto io e Bindi, perché nessuno lo sa fondamentalmente. Interessante. No? Comunque dobbiamo parlare magari. Allora, argomenti nerd. Masa, stasera c'è la finale. No, allora parlo veramente dell'ultimo capitolo Giappone di One Piece. E poi questo frutto mera ma non ne possiamo parlare. Giusto. Faccio uno spoiler. No. Faccio lo spoiler in diretta radiofonica. Ma lo spoiler è quello che metti nella macchina. E qui devo sottolineare un'altra cosa. Perché, giusto, perché settimana scorsa avevo promesso che avrei spiegato alcuni termini da nerd. Sì. Tipo lo spoiler. Lo spoiler è quello che metti nella macchina. No. Per l'aerodinamica. Lo spoiler, diciamo, è un raccontare il finale di qualcosa. Tipo tu stai guardando come una serie quello che va al cinema per i biglietti bravo è come intanto esatto. L'assassino è maggior esatto, questo è un termine nerd così apro anche un po' l'angolino l'assassino nerd. È Frank sempre. Esatto, quello è uno spoiler, quindi uno svelare un finale, tipo tu stai guardando si può anche coniugare spoileraggio Dead. Tipo esatto, stai guardando The Walking Dead e io ti dico il finale di Walking Dead, tu chiaramente mi uccidi ovviamente perché è quello che stavo per fare con il bindo con stavo per ucciderlo esatto, ma non è Frank esatto. Lo stavo per spoilerare e lui quindi abbiamo imparato una cosa nuova esatto, un termine panorama nerd. Nerd esattamente, uno dei tanti termini quindi nerd. Io a questo punto manderei la canzone, la prossima canzone che è The Faces Stay With Me Patru. Oh ti sì. Prego. No, ma anche no. We'll be right back. The Faces, la loro Stay With Me. Che stacco, ragazzi, l'ingegnere che ha fatto. Proprio l'ingegnere. Allora, ingegnere, come fai? Tutto a posto. Queste prove? Tutto bene. Giro veloce, tutto ok? Tutto. No. Potremmo fare meglio. Ma però, Però. E loro erano i The Faces. L'avevo già detto io. Ma io lo voglio ridire. Sono arrivati in ritardo. Un attimino, fammi ripetere le cose. C'hai il lag. Bravo, ho il lag. Ok. L'abbiamo spiegato lag? No, lag non l'abbiamo spiegato lag. Possiamo dire cos'è il lag? Che è un abbreviativo. È un abbreviativo? Sì, sarebbe lagging. No, perché io mi arrabbio talmente tanto quando ce l'ho che non... Ah, lag è fondamentalmente un disturbo di connessione mentre qualcuno è un ritardo di connessione mentre qualcuno sta giocando online nel mondo nerd. Sempre nel mondo nerd. Quindi tu cammini e tipo come succede in alcuni spara tutto e ti ritrovi morto con la faccia al muro così tutto insieme, e poi morto. Da un fotogramma all'altro. Esattamente. Okay. Allora andiamo avanti con i Jethro Tull. Dimmi se l'ho pronunciato bene. Jethro Tull. Scusa. Grazie. E la loro locomotive Braid. Che mi insegni essere? Locomotiva. Braid. Il respiro della locomotiva. Ah, giusto, Braid, respiro. Bravo, ragazzi. Valerio, oggi mi stai veramente nanno. Vado via. Cosa straordinaria. Una canzone del gruppo rock britannico, appunto, Jethro Tull, pubblicata nel loro album di successo Acqua Lunga del 1971. C'è l'acqua lunga, no? Sì, l'acqua lunga. Esatto, c'è l'acqua buona. Penso sia traducibile acqua lunga. Sì, non lo so cosa. Raccozzaia di parole. Non è. Vabbè, comunque, la canzone è uno dei cavalli di battaglia della band, tanto che in tutti i loro concerti viene eseguita per ultima. Qui fanno un po' gli sboroni. Sì. La band infatti al termine del concerto finge di andarsene per poi rientrare e eseguire solo quella canzone e salutare il pubblico per davvero. Spicca in particolar modo l'assolo di flauto traverso di Ian Anderson con alcuni passaggi indubbiamente molto molto complessi. Locomotive Braids. Testing, scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle, and the train in Watchtower Boy, no, it could slow down. He sees his children jumping off the stations one by one. Woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train it won't stop going. Oh, it took slow down. Già Neanderthal Locomotive Grid. Come l'hai pronunciato bene? Ah, come, proprio. Allora, ragazzi, stasera siamo pieni di complimenti. Io sono fatto una notatina nel canale Discord. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Tratto dal film, una parola spuntata in mezzo, in no, mezzo, giusto? 33 vedo? E mezzo, 1 e 33 quarti? 3 quarti, non lo so. Volte 3 quarti. 4 terzi radice quadrata. Comunque, io dicevo, ragazzi, è incredibile come quando uno si mette a fare un conto, tipo del calcetto, di quanti sì. siamo, tipo prima fuori onda è successo, raga, siamo in 10. Chi siamo? Chi siamo? Tipo? Allora, parto, siamo 1, 2, 3, 4, che siamo qui. Siamo poi qui. C'è lui, quell'altro, arrivi a 8, arrivi a 7 e tutti poi... Manca il mignolino che si deve ancora alzare. E ti guardi intorno, dici. Allora riparti. La conversazione su Facebook. Gli fai il calcolo. Siamo io, te, lui, l'altro. Arrivi a 9. No, ne manca sempre uno. E poi lì. Ma io sono al confidente, secondo me arriverà. Ecco chi era, vedi. Il ciccio, il timido, il faina. Il cobra. Il galina. Il galina. E il polvera. Poltergeist. Il polvere. Il frasco. Pagnotta. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti con Gipster. Dei T-Rex. Dei T-Rex. Che io mi immagino una band fatta di T-Rex. Come sì. possa suonare? No. Con i braccetti corti. I braccetti corti così. La pianola con il capo appoggiato. O hanno degli sopra. Strumenti piccolissimi. Che riescono a suonare. Sì. Con tre unghie affilatissime. Questa canzone, sempre di 71. Beh. E fino a qui vuol dire che non sbagliamo a fare non una sbagliamo. Scaletta, vuol Ad dire che ci siamo. La posizione numero 2 della classifica inglese UK. Oh. You're so sweet. You're so fine. I want your all and everything just to be mine. Cause you're my baby. Cause you're my love. Vampire for your love, and I'm gonna suck Padruzzi. Comodo, DJ Patruzzi. Sì, molto mi ero comodo. Leggermente addormentato. Sì, stavo guardando nel vuoto con le cuffie in testa, stavo per dormire. Ok. No, io davvero, ragazzi, se continuo così non arriverò ai al Serre Maggio. Ai 27 anni, ah. Considera che ne ho già 27, quindi okay. Penso morirò. Auguri. Grazie ingegnere. Grazie. Entreresti nella leggenda dei 27. È vero, c'è questo. È vero, vero. Sì. Quanto tempo hai ancora? Tanto. Ancora tanto. Purtroppo. Allora. Cioè, fortunatamente tanto. Cioè, fortunatamente tanto. Vabbè, comunque no. Fortunatamente tanto. Sfortunatamente tanto. Eh sì, no, perché tra altre cose tutti nel mondo della musica, purtroppo. Tutti. Molti. Nel senso, vabbè. Molti sono venuti a mancare all'età di 27 anni. Già. Tra altre cose, Jim Morrison, Amy Winehouse. Molti sono morti all'età di Kurt Cobain, bravissimo, esatto. Andiamo avanti con Behind Blue Eyes, che è il titolo di una canzone degli Who, composta dal chitarrista Pete Townshend, come lo dici te, Patro, lo dici messo. È contenuta nell'album Who's Next del 1971. Fu che pubblicato. Chi è il prossimo? Come vale dal dottore, no? Te immaginare il dottore inglese. No, l'India, ritmo, scusatemi, chi mi ascolta, però dice chi è l'ultimo? Ah, giusto. Ma quando entri? Sì. No, no, quando esci. Quando il dottore apre la porta. Chi è il prossimo? Ah, il prossimo. Giustamente. O anche da un urlo di solito dallo studio, neanche si alzano ultimamente. Prossimo. Behind Blue Eyes appare nel vinile originale del 1971 e la seconda versione incisa dalla band. La prima fu in seguito pubblicata come bonus track nell'edizione rimasterizzata con Al Cooper. Townshend ne registrò anche due versioni soliste, di cui una, il demo originale del brano, trovò posto nel suo album Scoop. Allora, The Who, Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. That's never free. When my fist clenched. bad man, to be the sad man behind blue eyes. Bindi. Vai, quindi, quindi vai. Sei il disannunciatore ufficiale. Ah, ah sì, sempre io. Allora erano Yehu con Behind Blue Eyes. E che io... buon patro mi insegna, vuol dire dietro i tuoi occhi blu. Bravo, il romanticismo. Allora io qui passerò da un po' ignorante. Sì. La, questa canzone è famosissima per essere stata fatta anche e riscritta da un grandissimo artista. Chi è? Che, tu ti ricordi chi è? No. Allora te lo dico dopo. Allora te lo dico dopo. A fine puntata. Volevo vedere se eri preparato. No. Invece no. Bravo Valerio. Bravo, no. C'era Valerio in radio. Ingegnere, lei cosa ne pensa? Bravo Valerio. Ingegnere, bravo. Lei bravo. Lo sa, scusi. Bravo Valerio. Lei lo bravo. Sa, ingegnere. Bravo Valerio, bravo. Vero Bindo? Bravo Valerio, bravo. Oh, ecco, impegnatissimo. Allora, andiamo avanti. Allora, bambini calmi. Bravo. Va bene? No, perché già ho dubito. Allora, non travisate. Parliamo dei Rolling Stones e purtroppo devo dire che questo sarà l'ultimo brano, non di oggi, ma l'ultima canzone che andremo a spiegare del 1971. Dopo ci saranno a seguire anche Oasis e Darkness, però sì. Chiaramente del 1971. La storia la chiudiamo esatto, qui per la oggi. Esatto, la chiudiamo qui. Per oggi, solo per oggi. E la chiudiamo con i Rolling Stones e la loro Beach. Che in inglese che in inglese come usato, spiaggia, no? No, che in questo contesto significa fregatura. È una perché canzone... in altri contesti potrebbe significare? Spiaggia. Ah, ok. Sicuro? Sì. Sì. È scritta appunto dai mitici Rolling Stones, pubblicata nel loro album Sticky Fingers del 1971. Sticky Fingers. È chiaro. Che vuol dire? Dita sottili. Bravo! Ma c'è Wikipedia sotto. No. Cioè, sento rumore di tastiera e di traduttore, sento. No. Scritto da Mick Jagger e Keith Richards, la canzone fu registrata agli Olympic Studios di Londra durante nel 1970. Le no. Nel 70 non credo c'erano. No, non c'erano le Olimpiadi. 68. Tu sei. Sei tutti gli anni a memoria. Sì, perché Roma 60, poi 64, 68, okay. eccetera. Il brano fu inoltre interpretato dai Goo Goo Dolls, dagli Exodus e dalla Dave Matthews Band. E loro sono i Rolling Stones con Beach. Yeah. Rolling Stones con la loro Bitch. Fregatura. Bene sottolineare, perché qualcuno potrebbe interpretare male. Purtroppo, come abbiamo già detto, l'ultimo brano per questa prima parte del 1971. Ma chiaramente ora si va a braccio. Settimana prossima avremo la seconda parte del 1971. Sì. Siamo a gancio. Adesso un po' di canzoni random, loro a parte ti piacciono tantissimo. A chi? Loro. A Valerio, Valerio. A me sì, sì. Tu sei un patito. Guarda, uno dei miei più grandi dispiaceri è che non riuscirò mai a diventare un membro degli Oasis, a andare a un loro concerto. Perché? Perché si sono sciolti un paio di anni fa. Oh. Anzi, più di tre anni fa. La mia ignoranza sugli Oasis. Alzo le mani. Non credo che si rimetteranno insieme. No, eh? No, non credo proprio. No, come è finita la cosa? Ma non penso a cazzotti. Non penso a Taraluce e vino. Di solito loro si picchiavano, quindi penso a cazzotti. Quindi non, sì, quindi non credo sia finito con un mazzo di fiori. Sì, ero due fratelli, si volevo molto bene. Sì, tantissimo. Infatti mi rivedo molto. Comunque, loro sono gli Oasis con un classicone, con Stand By Me. Something new, bouncing out the cold and wind and rain, don't know, we only see. la bellezza di questa canzone, Patro. Quanto ti piace? Quanto mi piace? Da 1 a 10. Devo dire la verità, avendola, non è la mia preferita. Non è, appunto, non è la mia preferita, però anche ascoltandola ripetutamente, dopo cominciano un po' a romperti le canzoni, anche quelle belle, belle, belle. Sì. Anzi, non vi sento un cuffio. No. Credo ingegnere potrebbe dare una mano al tecnico, sì, perché credo abbia messo. Sì, guarda, li mette così. Le no, no, ingegnere no, ingegnere no, non va in quel modo. Aspetta, le giro. No, qui. No, quello è il collo. Ingegnere potrebbe. Ecco, ecco, ecco. Lei, ingegnere, ecco, mi conferma che lei ancora sta lavorando per quella famosa macchina. E la, sì, lei sta testando proprio. Sì. Il futuro di quella macchina è le sue Nick mani. Fury, Tony. No, e abbiamo bisogno di lei. Quindi non è. Ah, neanche così. No. Non è a destra. E non a sono Tony Stark. Purtroppo. Comunque, dicevamo, beh, quello sì. Infatti c'è una legge importantissima che dice: mai mettere la tua canzone preferita come sveglia. Perché? No, perché primo la senti tutti i giorni, ah, e lo associ al fatto che tu. Ma è una legge svegliando scritta o un sentito di? No, se okay, una legge non scritta. No, magari diciamo da qualche parte è anche un scritto. Articolo 9 del comma 2 paragrafo B. No, okay. L'emendamento. Dove lo metti? L'emendamento. Dove lo vendi? Dove lo vendo? Appoggio, dove lo giù. Dove lo vendi? Perché comunque sia tu automaticamente lo associ anche al fatto che ti svegli e chiaramente. Quindi è brutta. La sensazione spiacevole. Esatto, insomma, e esatto, quindi colleghi la canzone a chip. E quindi quando tu magari lo riascolti, la prima cosa che viene in mente. Ah, la sveglia, no, allora. Il subconscio lavora. Sì, esatto, okay, ti viene da poi odiarla quella canzone. Sì, fortemente. No, a me succede quando le ascolto a rota. Beh, in continuazione. Chiaro, sì. È la stessa cosa, esatto, ascoltando tutte le mattine. Esatto, quella è la stessa cosa. Anche perché non riesco ad ascoltare una canzone. Se mi piace una canzone, io sono capace di ascoltarla 100 volte in una sera. Sì, sì, no, cioè, io uguale, uguale. Sì, sì, no, io sono esattamente allo stesso modo. Però lì, poi purtroppo lì non poi dopo ti viene a noia, però. Lì proprio sì, ma lì perché ti viene a noia, cioè ti stufi proprio di quella canzone. Sì. È normale, quello, cioè. Ma le persone normali non fanno così, il problema è quello. Giusto per ricordare che oltre l'angolo nerd c'è anche l'angolo calcio qui con noi. Sì, esatto, esatto. Ricordiamo che i fratelli Gallagher sono grandissimi tifosi del Manchester City che ha vinto il campionato. Ha vinto il campionato? Settimana scorsa. Complimenti! Il Ma il Manchester City è paragonabile a un nostro Inter Milan? Non so, non è paragonabile. Perché è più forte? Sì. Sì, ora come ora direi okay, proprio di sì. Cioè spacca. Sì, sì, c'hanno gli sceicchi, tanti soldi, tanti soldi, tanti soldi. Un po' più dei soldi. Un po' più dei soldi. Hanno un po' più di benzina. La seconda. Tipo 25 volte noi. È la seconda è squadra. Vero? Sì. Davvero? Sì, sì, sì, si tratta la di seconda milioni squadra di Manchester, seconda per importanza di trofei vinti, diciamo, per spiegare solo quello, poi scusa, il Manchester City e l'altra è Manchester United. Ah, ok. Ma io detti anche Citizen. Citizen. Sì, come e tra di loro scommetto diavoli rossi. Tra di loro scommetto sono Red Devils e i diavoli blu. No, no, no, loro Citizen sono. Sì, sì. Pensavo. Non so perché e, e il Manchester City e il Manchester United fra di loro i tifosi sono chiaramente ovviamente è un derby, quindi non vanno mano per la mano. No, direi proprio di no, direi. No, no, no. Comunque, andiamo avanti. Andiamo con avanti. L'ultima canzone, sì, di oggi. L'ultima canzone di oggi, anzi, siamo anche abbastanza in ritardo. 20:01. Comunque, la lanciamo subito. I Darkness. Molto bella con anche questa. I Believe in a Thing Called Love. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering. I believe in a thing Darkness con I Believe in a Thing Called Love. Quindi io credo in una cosa chiamata amore. Bravo Padre. Giusto? Ma ci credi per davvero? Cambiamo argomento. Ecco, ok. Credo sia meglio cambiare. No, passerei. Masa, mettimi una base impopolare. Aspetta. Base impopolare, vai. Perfetta, bella. Mi ricorda un po' quella di Star Wars della settimana scorsa. Sì. Però io, ingegnere, mi fido di lei. Ecco, bravo. Il mio ingegnere. Ragazzi, anche se non ti fidi di ingegneri, di chi ti puoi fidare? Ingegnere. Anche oggi in chiusura, 20.05, un po' in ritardo, considerando il mio ritardo, va bene. Aspetta, ragazzi, che avevo sentito un sottofondo strano. No, mi è partito. È il Bindo che sta giocando con il suo telefono per mettere le scenette. Okay, guarda, vale. cade da in piedi. Ma facciamogliela mettere una, dai. Scegliela una così al volo. Sto scegliendo un attimo. Vabbè, comunque, ragazzi, ricordiamo i nostri appuntamenti. La pagina Facebook, All Time Rock and Roll. Sì. E dove potete mettere i mi piace. Chiaramente scrivere magari anche le vostre dediche. E poi metteremo le vostre dediche. Una richiesta, così. Sì. Senza problemi. Sì, sì. E il podcast di questa canzone che ho scoperto, che Valerio, tu devi ancora caricare ben 10. Ho di nuovo problemi con la connessione a casa. Allora, anche se ce l'avevi a 56k, come dici. No, no, non va proprio. È 4 giorni che sono senza. Hai capito? Ma 10 puntate non le abbiamo fatte. Sì, in vabbè, giorni. Ma le mettiamo tutte insieme, non c'è problema. Va bene. Comunque, e il podcast di questa puntata che Valerio. Ricordiamo che stasera c'è Piazza Alta. No. Stasera. C'è Claudio. Stasera, ragazzi, di Piazza Alta, e questa sera c'è Claudio. Sì, stasera c'è Sugar Night. Esattamente. Dalle 10 alle 11. Yes, bravissimo. Ragazzi, io sono il Patru, davanti a me un altro speaker, Valerio, detto il Nanno. Ciao. E dalla regia, le due schiene più imponenti di All Time Rock and Roll, l'ingegnere e Poltergeist. E il Bindo. Ragazzi, se volete, come sempre, ci trovate qui settimana prossima, mercoledì prossimo, dalle 19 alle 20. Ciao a tutti, bacello. Ciao.